Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lei era un'amica di mio fratello e io, essendo più piccolo, non potevo neanche avvicinarmi al gruppo di amici di mio fratello. Ho altri amici, farfugliai. Improvvisamente poi ricordai il suo nome: Irma. Pagai diventando rosso come un pomodoro sammarzano. Ciao allora, dissi in fretta. La sua risposta mi lasciò di sasso. Domani ho la giornata libera. Ti va se ci vediamo? Perché non vieni al porto? Dove ci sono i massi? Mi chiamo Antonio, sono di Salerno e nella vita faccio il medico. C'è una frase proprio in questa intro che abbiamo letto, di Akel, che poi è il racconto di Antonio, che già fa capire di cosa stiamo parlando. E la frase è: dove ci sono i massi? Ci vediamo al porto dove ci sono i massi. C'è sempre un posto, sempre, in una città, in un quartiere, che è un posto segnalato da qualcosa, dai sassi, da quel muro diroccato, dove c'è la macchina abbandonata, dove c'è la casa senza il tetto, dove succede qualcosa di strano o dove può succedere qualcosa di strano. La cosa strana che succede ad Antonio non è poi così strana, o in parte sì, dipende dai punti di vista. È di fatto un rito di passaggio, è un'iniziazione. In questo caso è un'iniziazione alla sessualità, ma per qualche verso è stata un'iniziazione all'età adulta. Il racconto di Antonio è molto divertente, anche commovente, ma non è per niente commovente il racconto. È una puntata ad alta densità vorrei dire di erotismo per fare audience, ma non è neanche così. Allora ragazzi, non c'è la commozione, non c'è l'erotismo, di cosa parliamo? Parliamo di iniziazione. Se anni fa una donna vi ha preso per mano e vi ha fatto scoprire quello che voi, giovani fanciulli, non conoscevate, 349-238-6666. Questa storia tra l'altro risale agli anni 60, direi, perché a giudicare dalla foto Antonio ha una cinquantina. Sappiamo quanti anni ha Antonio? Non l'ha detto prima, no? Glielo chiediamo direttamente dopo. Prima però di andare al rito di passaggio, all'iniziazione di Antonio e di tutti i giovani uomini, voglio fare un passo indietro e tornare alla puntata di ieri, e farlo brevemente, perché c'è una parte di questo programma, che è quella che arriva subito dopo la borsa, che è dedicata alla descrizione di una foto che le persone che mi raccontano la loro storia ci mandano e che Margherita gentilmente mi stampa a colore, altrimenti come un anziano non saprei riconoscerla. Che colore è quello? Insomma, la foto di ieri era una foto in cui Clara, che era la protagonista della storia, si trovava con suo marito Augusto e tutta la famiglia in posa, in casa, per una festa. Lei era l'unica foto che aveva sul computer e ce l'ha mandata. Guardando quella foto, a me è caduto l'occhio su un mobile che era alle loro spalle, che era una credenza, e che dissi: questo è proprio il tipico mobile che c'è nella casa delle nonne, che c'è, oppure quel mobile che ci portiamo dietro di casa in casa. E questa mattina, o ieri è arrivata, ieri sera, erano 16 aprile, ore 21.04, scrive Clara: ciao a tutti, sono ancora emozionata per la trasmissione di oggi e commossa per la capacità di Matteo di entrare nelle cose e capirle oltre le parole. Ora Clara, mi verrebbe da dire che ho sparato veramente a caso, però mi piace tenermi questo complimento. Per questo ti mando una fotografia che si collega alla credenza di cui tu hai parlato, perché hai proprio ragione, è un mobile di famiglia, è la stessa credenza della fotografia che ti allego e che più tardi vi carico sul profilo Facebook. E vi appare mia madre, il retro non puoi vederlo, ma c'è scritto Trento 1927, è la città dove allora mio padre, ufficiale di cavalleria, era a distanza ed era anche l'anno del suo matrimonio. Dopo ve la carico sul profilo Facebook. È proprio la tipica foto in bianco e nero che abbiamo tutti in casa, la foto della nonna o della bisnonna, quella che ha il bordino bianco tagliuzzato, come si dice, rifinito, azzigrinato a punte, e c'è questa bellissima donna che è la mamma di Clara e che veramente le somiglia, e alle sue spalle la credenza, uguale alla foto che c'era ieri e che trovate sul sito di Radio 24. Questo così per chiudere, diciamo, un capitolo, e per aprirne direttamente un altro, che è quello di Antonio, che risale al 1960, quando lui era un ragazzino giovane impacciato, come tutti i ragazzini giovani impacciati. Le donne di solito a parità d'età sono già più avanti, figuriamoci se hanno qualcosa tipo 5 o 10 anni più di noi. Non dimenticherò mai quel giorno d'estate. Al mattino ero andato ai grandi magazzini a comprarmi un accappatoio nuovo. Mi serviva per il freddo della sera.

Diciamo che era il 59, secolo scorso. Vabbè, non è così difficile, era prima di 12 anni fa. E però c'è gente che è nata in questo secolo e già ragiona, no? Fa effetto. Gente di 12 anni che già fa già ragionamenti. Vabbè, chi se ne frega. Torniamo al 59. Quindi tu quanti anni hai adesso, Antonio? Io adesso ce n'ho 68, Matteo. Forse non l'avresti letta se avessi saputo la verità. Ma al contrario, guarda, anche se ne avessi avuto è tanta, anzi probabilmente l'avrei letta più volentieri. Sei ancora in attività? Sei sempre medico? Sì, sono ancora in attività, sono medico e continuo ad esercitare, sono in buona salute, quindi insomma. Che tipo di medico sei, Antonio? Sono medico odontoiatra, chirurgia implantologica orale. Quindi lavori in ospedale? No, non più, adesso lavoro privatamente. Senti, ma Irma? Ah no, non lo so, l'ho vista quel giorno, poi probabilmente per la vergogna non l'ho più vista neanche il giorno dopo. Quindi abbiamo veramente perso le tracce di lei? Sì, abbiamo perso le tracce immediatamente, forse qualche giorno ancora dopo quell'evento, chiamiamolo così. Tra l'altro, scusami, Irma adesso, se è ancora tra noi come speriamo, avrà attorno ai 72, giusto? 73. Sì, aveva 3-4 anni più di me, quindi 15, 18, 19. E quindi mi piace immaginarla come una bellissima signora di 73 anni. Sì, che... l'ho immaginata spesso, anche perché insomma si trattò di una, come dire, di un rapporto asimmetrico, no? Cui, a differenza di un rapporto di un evento simile tra due coetanei, i quali comunque magari condividono delle cose, insomma si danno una mano, cose. Anche se in effetti anche lì c'è spesso una simmetria, perché in un rapporto tra coetanei di quell'età c'è comunque il ragazzo, il maschio, che deve dimostrare di essere maschio, certo, sono le strutture culturali, e quindi c'è anche un'ansia da prestazione forse, cosa che non accade in questo racconto, perché ecco, si può dire che il ragazzo fu preso per mano per la serie "io sono qui, fa di me quello che vuoi". Cioè tu gli hai alzato le braccia proprio, hai detto. Senti, invece scusami, so che sembra una domanda stupida, però mi piace, per concludere il quadretto di quel giorno, ti ricordi più o meno quanto è durato il tutto? Tipo, che nella memoria può essere durato 2 ore come 30 secondi. Sì, poi alla fine tu hai più che il ricordo, hai il ricordo del ricordo. Certo. Senti, no, poi... siamo stati insieme, credo, mezza mattinata, che poi alla fine, insomma, alla fine quello che rimane dopo l'evento principale è quasi una incapacità a fare, a parlare, a dire, no? Perché rimane inebetito quasi. Senti, tu sei poi sposato, hai dei figli, hai una famiglia? Sì, poi mi separai, insomma... Poi i casi della vita mi hanno portato ad una situazione affettiva, a situazioni affettive diverse, insomma. Hai dei figli? Sì, ho una ragazza di circa 40 anni, 38 anni. Insomma, una donna, quindi. È una donna, sì. Ma hai nipoti? Sei già nonno? No, non sono nonno. Ok, no, perché mi immaginavo come ti immaginavi una eventuale, vabbè, figlio ormai è tardi, cioè ormai sono passati anni, a quell'età lì, cosa fa un genitore? Non ci pensa, in sostanza? Non ho capito, scusa. Cioè un genitore che ha avuto esperienze di questo tipo e ha quindi figli o maschi o femmine che hanno quell'età lì in cui ti succedono quelle cose, cerca di non pensarci. No, non rispetto ai figli, tu dici? Sì. No, non è che cerca, pensa che comunque un evento simile vissuto con serenità, con gioia, che ti dà poi un'esperienza che ti mette nel mondo dell'adulto, ti mette faccia parte della vita, insomma. Parte della vita, sì. E ti mette in modo sereno, senza trauma, quindi è bellissimo comunque. Antonio, ti ringrazio davvero tanto per il garbo e la delicatezza delle tue parole e della telefonata. Ti auguro buona giornata. Ti ringrazio, Matteo, a te e a Margherita. Ciao, grazie mille. Ciao. Non ricordo più il nome, una sera di primavera mi diede un anticipo, un assaggio del suo mondo, e anche i soldi li volle in anticipo. Voi siete qui. Voi siete qui. Il racconto della foto di Antonio non sarà obiettivo, perché Antonio mi sta molto simpatico e quindi risulta molto simpatico anche nella foto. Ha un abbigliamento da trekking leggero, è probabilmente in montagna, guarda un fiume che gli scorre a fianco, e c'è un dettaglio, insomma, a parte lo sguardo un po' in posa la fotografia, e il dettaglio è, e glielo devo chiedere, mi sono dimenticato, che su una delle due scarpe da montagna, è tenuta insieme, letteralmente tenuta insieme, da un nastro adesivo nero. E non si capisce perché. Magari si sarà scollata, sì, però probabilmente strada facendo, quindi è proprio della giornata. Giustamente il Boy Scout che è in Paolino Corleoni identifica qualsiasi cosa. Ah, a quale scout non è successo? 349-238-6666. Si parla di iniziazione grazie al racconto di Antonio. Antonio da Bari, un altro Antonio. Tanti Antoni e tanto Meridione oggi, finalmente. Io 17 anni, italiano, lei 24 anni, ballerina brasiliana. Era come essere un bambino in un negozio di giocattoli, erano tutti belli e non sapevi quale scegliere per primo. E poi anche qualcuno che dice: ditelo che oggi è vietata minore di 18 anni, mi sembra un po' esagerato. E poi un messaggio che c'entra poco, però c'entra perché non so cosa c'entra, ve lo spiego. Mi scrive Mohamed da Mirabello, che abbiamo scoperto essere in provincia di Ferrara: grazie tantissimo per le bellissime storie in cui ogni giorno imparo una nuova parola. Mohamed, mi devi dire qual è la nuova parola che hai imparato oggi. L'ipotesi che è stata fatta in regia è la parola limonare. Secondo me però Mohamed sapeva già cosa voleva dire limonare, e c'è qualcosa che viene probabilmente dal racconto di Antonio più che dai miei. Quando abbiamo letto il racconto di Antonio ci è venuto in mente il libro, che è il libro, è il più grande classico che parla di iniziazione. Lui è un ragazzino di 16 anni, è francese, e si innamora di questa giovane donna che ne ha poco di più, ha una ventina, e che è sposa di un militare che è via in guerra. Siamo nella prima guerra mondiale, siamo in Francia, il ragazzino, ripeto, ha 16 anni, l'autore si chiama Raymond Radiguet e il romanzo invece è Il diavolo in corpo. Io piango perché sono troppo vecchia per te. Questa parola d'amore era di sublime puerilità. E quali siano per essere le passioni che proverò in seguito, non sarà possibile mai più l'adorabile commozione di vedere una ragazza di 19 anni piangere perché si trova troppo vecchia. Il sapore del primo bacio mi aveva deluso come un frutto che si assaggia per la prima volta. Non nella novità, ma nell'abitudine si trovano i maggiori piaceri. Qualche minuto dopo non solo ero abituato alla bocca di Marta, ma non potevo più farne a meno. E proprio essa parlava di privarmene per sempre. Quella sera Marta mi riaccompagnò fino a casa. Per sentirmi più vicino a lei, mi rannicchiavo sotto la sua cappa e la tenevo per la vita. Essa non diceva più che non dovevamo rivederci. Era triste invece perché fra qualche momento ci saremmo lasciati. Si faceva giurare da me mille cose pazze. Innanzi alla casa dei miei genitori non volli che Marta se ne tornasse sola e l'accompagnai fino a casa sua. Senza dubbio quelle puerilità non sarebbero mai finite, perché essa voleva riaccompagnarmi un'altra volta. Accettai, a condizione che mi avrebbe lasciato a mezza strada. Arrivai con mezz'ora di ritardo per il pranzo. Era la prima volta. Ne diedi la colpa al treno. Mio padre finse di crederlo. Io non sentivo più peso di sorta. Per la strada camminavo con la leggerezza dei sogni. Fino allora a tutto quello che da fanciullo avevo desiderato, avevo dovuto rinunziarci. D'altra parte, l'obbligo di essere riconoscente guastava per me i giocattoli che mi venivano offerti. Che prestigio ha per un fanciullo un giocattolo che si dà da sé? Ero ebro di passione. Marta era mia. Non ero io che lo avevo detto, era lei. Potevo toccarle il volto, baciarle gli occhi, le braccia, vestirla, sciuparla a mio piacere. Nel mio delirio la mordevo dove la sua pelle era nuda, perché la madre sospettasse che aveva un amante. La mia barbarie di fanciullo ritrovava l'antico senso dei tatuaggi. E Marta diceva sì, mordimi, lasciami i segni, vorrei che tutti lo sapessero. Avrei voluto poterle baciare i seni. Non osavo chiederglielo, pensando che avrebbe saputo offrirmeli da sé, come le labbra. In capo a qualche giorno, avendo preso l'abitudine di avere le sue labbra, non mirai ad altre delizie. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Estate 99, Caraibi, io 16 anni, lei 27, bellissima, su una spiaggia ho conosciuto lo splendido universo femminile, sogno ancora quella notte, Ettore, e poi ancora Giampaolo, Zocca c'è, benissimo, Zocca c'è, e poi qualcuno mi dice la parola che avrà imparato Mohamed sarà iniziazione, dai Matteo, dai, calma, magari invece no, e poi mi chiedono del tour, state lì, adesso chiudiamo, va chiedo asilo, io e Bonini andiamo in riunione apposta per parlare delle date del tour, a breve lo sappiamo, grazie quindi a lui, grazie a Paolino Corleoni, a Margherita Ina e a Federico Bernocchi. La storia di oggi era la storia di Antonio e parlava di iniziazione, per il piacere di Mohamed. Quella di domani è la storia di Claudia e parla di tuffarsi. Sono emersa. Apro gli occhi e con le mani li strizzo dall'acqua che mi annebbia la vista. Non me ne frega più niente degli sguardi degli altri. So che mi stanno ancora guardando, ma non ha più importanza. Do due bracciate e sono libera verso il centro della baia.